Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, il nostro appuntamento con i periodici italiani e stranieri, le notizie, gli argomenti di cui si discute sulla stampa non quotidiana. Partiamo da un argomento di cui si è discusso abbastanza sulla stampa quotidiana e che ha trovato un eco naturalmente anche in quella settimanale, in quella periodica. Parliamo dei bamboccioni. I bamboccioni sono, secondo il fortunato, è il caso di dirlo, il fortunato termine coniato qualche anno fa dal ministro dell'economia Padoa-Schioppa, sono quei giovani che non riescono ad andarsene da casa o non vogliono andarsene da casa, dalla casa dei genitori. Si occupa della questione Luca Ricolfi nella sua rubrica Fatti e Credenze su Panorama di questa settimana e dedica al tema un'analisi che ha il pregio di inquadrare un po' tutti i vari problemi, le varie questioni che stanno al di sotto di questa difficoltà o resistenza da parte delle generazioni più giovani a lasciare la casa dei genitori. Il titolo Bamboccioni, cioè giovani né. E cosa significa questa doppia negazione? Non studiano, non lavorano, rinchiusi nella prigione dorata delle famiglie, non accettano posti di basso livello e quelli di alto livello non si creano anche perché scuola e università qualificano poco. Questa è la spietata sintesi che viene fatta della rubrica di Ricolfi proprio nella titolazione da parte di Panorama. Leggiamo qualche brano di questo articolo di Ricolfi. Periodicamente dice il problema dei bamboccioni si ripropone non solo in Italia, e questo è vero perché anche in questi giorni abbiamo potuto leggere appunto che il problema dei giovani che faticano a lasciare casa, la casa dei genitori, è un problema comune anche a livello europeo. Qualcuno ingenuamente potrebbe credere che sia un problema relativamente recente, quello dei figli che restano nella casa dei genitori ben oltre la maggiore età, a volte anche fino a 30, 35 o addirittura 40 anni. In effetti l'espressione bamboccioni fu coniata appena 3 anni fa, per l'esattezza il 4 ottobre del 2007, dall'allora ministro dell'economia Tommaso Padoa-Schioppa, che per motivare le agevolazioni fiscali ai giovani con abitazioni in affitto, agevolazioni che erano state disposte appunto dal governo dell'epoca, il governo guidato da Romano Prodi, non trovò di meglio che dire così mandiamo i bamboccioni fuori casa. Ma già allora, avverte Ricolfi, il problema aveva una lunga storia. 6 anni prima, infatti, nel 2001, era uscito in Francia il film commedia Tanguy, descriveva le abitudini di un 28enne che ormai era prossimo alla laurea ma era fermamente determinato a procrastinare a tempo indeterminato la permanenza in famiglia. Probabilmente qualcuno di voi, molti di voi, avranno visto questo film, peraltro molto divertente. Ancora prima, molto prima, nel lontano 1988, Virnalisi e Catherine Spack avevano interpretato una brillante serie televisiva significativamente intitolata E non se ne vogliono andare, una serie che finiva con lui e lei, i genitori invasi da un esercito di figli, amici, amanti dei figli, che si salvano prendendo una romantica soffitta per ritrovare un minimo di privacy. Quindi il problema, stando almeno a questi segnali che emergevano nel cinema e ancora prima nella televisione, ha abbondantemente una ventina d'anni. Dunque il problema è vecchio, segnala Ricolfi. Che l'abbia risollevato il ministro Renato Brunetta con la proposta chiaramente provocatoria di una legge che obblighi le famiglie a mandare fuori casa i figli al compimento del 18° anno di età non può sorprendere più di tanto. Quel che però è forse cambiato rispetto ad allora, e qui comincia l'analisi sulle motivazioni che viene fatta da Ricolfi, è la gravità della posizione italiana, che non solo si ritrova con una quota spropositata di giovani ed ex giovani, in qualche caso, che non se ne vogliono andare, ma anche con un mercato del lavoro del tutto cambiato, specie dopo la grande crisi del 2007-2009. Questo è un dato positivo. Ricolfi ritiene quindi che in qualche modo stiamo uscendo dalla crisi, speriamo che sia così anche per la parte occupazionale. Si rimanda un grafico che infatti ci impietosamente pone all'ultimo posto nella classifica dei giovani che non lasciano le case dei genitori. Secondo le statistiche, le elaborazioni che sono state fatte dall'Osservatorio del Nord-Ovest su dati di una ricerca europea che si riferisce però al 2003-2004, risulta che il 63,5% dei giovani tra i 15 e i 34 anni vive in casa con i genitori. È la percentuale che risulta più alta di tutte, perché la media europea è intorno al 45, quindi siamo quasi 20 punti sopra, mentre la Spagna, che è diciamo la nazione più vicina alla media europea, sta al 39,5%. Il Regno Unito è a un 15,5%, la Germania è un 17,5%. I dati, ripeto, non sono nuovissimi, quindi andrebbero ugualmente rivisti sulla base degli eventi occupazionali che si sono succeduti specialmente in questi ultimi due anni. Ma proseguiamo con l'analisi di Ricolfi, che ci aiuta a capire un po' perché è così difficile in qualche modo il distacco, la creazione di nuovi nuclei familiari, di nuovi nuclei abitativi. Dice: caratteristica essenziale di tale mercato, il mercato del lavoro, e questo è poi probabilmente la maggior componente che gioca in questo fatto, è che la maggior parte dei nuovi posti di lavoro è a bassa o media qualificazione, spiega Ricolfi, a fronte di un'offerta di lavoro che aspira a posti a qualificazione alta o medio alta. Quindi ci sono posti di lavoro, ma per lo più per qualifiche basse, ci sono giovani preparati per qualifiche alte o che aspirano a qualifiche alte, e quindi questo fa sì che la domanda e l'offerta non si incontrino o si incontrino malamente. La conseguenza è che gli immigrati che si accontentano di posti modesti trovano ancora lavoro, mentre i giovani italiani che aspirano a posti di rango più elevato, non trovandoli, preferiscono restare sotto l'ala protettiva della famiglia di origine. Perché siamo arrivati a questo punto, si chiede Ricolfi? In parte per le ragioni che ricorda il ministro, prima fra tutte l'ostinazione con cui tutti, politici, sindacalisti, grandi imprese, hanno difeso un mercato del lavoro e un sistema di relazioni industriali che iperprotegge i forti, impiegati pubblici, dipendenti delle grandi imprese, e dimentica i deboli, ossia donne, giovani, precari. Effettivamente le scelte che sono state compiute anche dalla politica in anni recenti non hanno spesso tutelato chi era alla ricerca del primo impiego. Ma in parte, avverte ancora Ricolfi, anche per una ragione più basilare. Il livello di qualificazione della nostra forza lavoro è bassissimo, sia nel senso che ci sono pochi laureati e diplomati, sia nel senso che il livello di preparazione dei nostri studenti è assai modesto, come i test PISA da anni certificano. Questi test sono dei test, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, che segnalano la qualità della preparazione scolastica degli studenti dei vari paesi, e dove purtroppo su alcune materie, specialmente quelle scientifiche, noi italiani ci classifichiamo sempre abbastanza indietro. Questo deficit di capitale umano innesca un circolo vizioso. I giovani non trovano lavoro perché non accettano posti di basso livello, ma i posti di alto livello non si creano anche perché i giovani sono poco qualificati. Ovviamente quella di Ricolfi è una generalizzazione, anche dovuta alla estrema sintesi in cui tocca riassumere un problema molto vasto, ma sicuramente c'è del vero in quello che dice, quando spiega appunto i giovani sono poco qualificati, sia perché scuole e università hanno più o meno consapevolmente abbassato gli standard, sia perché i giovani stessi e le loro famiglie hanno instaurato uno strano regime in cui è possibile prolungare indefinitamente gli studi laureandosi a qualsiasi età, persino evitare sia il lavoro sia lo studio. Da qui appunto si arriva a questa generazione nenè di cui parla Ricolfi nel suo titolo. Allora, visto che parliamo di cose che succedono in casa, vi segnalo una cosa molto più leggera di questo argomento, che immagino decisamente controverso, appunto dei giovani che non riescono, non vogliono andarsene di casa. Che cosa fa il gatto quando non c'è nessuno in casa? Non so se è una domanda che chi possiede un gatto, chi possiede un animale domestico sia mai posta, però se la sono posta dei ricercatori statunitensi, e la risposta viene riportata questa settimana su Vanity Fair. Tu non ci sei, il gatto balla, è il titolo del piccolo articolo affidato a Luca Ventura. Vi siete mai chiesti cosa fa il micio quando uscite? Di tutto tranne che dormire. Questa è la risposta. La maggior parte dei padroni è convinta che il gatto, quando è solo a casa, passi il tempo a dormire in attesa del loro ritorno. In realtà una ricerca condotta negli Stati Uniti su un gruppo di 50 felini sfata invece il mito del gatto fannullone. La sorpresa maggiore, spiegano i ricercatori, è stata scoprire quanto sono attivi in nostra assenza. Come hanno fatto? Hanno messo al collo dei gatti un dispositivo che scattava delle foto in intervalli di 15 minuti e così hanno scoperto che i felini passano il 22% del tempo a guardare fuori dalla finestra, il 12% a interagire con altri animali in casa o nei paraggi, il 6% a balzare su sedie e poltrone. Poi c'è un altro 6% di tempo che viene speso davanti allo schermo di TV o computer anche se spenti, il 5% a giocare, circa il 4% a mangiare e poi c'è tutta una serie di altre attività. Insomma, praticamente il gatto non sta mai fermo quando è da solo in casa, verrebbe da dire quasi contento di questa libertà che i padroni gli lasciano. Il sonno infatti occupa, sempre secondo questa ricerca condotta negli Stati Uniti, soltanto il 6% delle ore a disposizione. A questo punto, conclude Ventura, resta da scoprire se è vero che quando poi non c'è il gatto a loro volta come vuole il proverbio ballano i topi. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando delle attività che svolgono gli animali domestici quando i padroni non sono in casa. Ritorniamo invece su chi di attività cerca di svolgere il meno possibile perché coltiva un sogno quasi diventato quasi mitico, che è quello della ibernazione o della criogenesi. Perché ve ne parlo? Perché se ne occupa come storia di copertina Il, che è il mensile del Sole 24 Ore, è in edicola già da qualche giorno, lo trovate sempre in vendita con il nostro quotidiano. Nel numero di gennaio, appunto, occupandosi dell'altro mondo in genere, viene dedicato anche un articolo affidato a Saverio Fossati alla criogenesi o ibernazione, come vogliamo chiamarla. Sono rappresentati poi in una doppia pagina 7 casi di vita sotto zero, cioè ma è realmente possibile rallentare le proprie funzioni vitali, appunto, ricorrendo a temperature estreme e in qualche modo prolungare, andare verso chissà, forse l'immortalità vera e propria. Fossati mette in rassegna un po' tutte le possibilità che si sono create sia nei fumetti, nel cinema, piuttosto che nell'industria, o le criogenesi, le ibernazioni che resistono realmente nella biologia o che si sono immaginate in letteratura. Tralasciando le questioni dei fumetti, è abbastanza interessante scoprire che ci sono delle persone che si rivolgono a delle associazioni. C'è un'associazione americana che si occupa proprio della crioconservazione, cioè di conservare dopo il decesso le spoglie nostre in attesa di scoperte scientifiche che consentano di tornare in vita. C'è anche, viene interpellato in questo caso, un avvocato di Pordenone che si è rivolto proprio a questa associazione e che già da diversi anni appunto continua ad aderirvi. Spiega l'avvocato: una settimana fa ho pagato la mia quota per il quinto anno, tanto sono sicuro che quello che ho fatto è giusto, una sorta di assicurazione sulla vita eterna, verrebbe da chiosare. La crioconservazione costa di più, tuttavia è possibile infatti accedere anche a una formula chip garantita proprio da un'assicurazione. Ogni anno vengono pagati $3,600 fino alla morte. Questo permetterà di essere conservati come se si fosse pagato in una sola volta $175,000. Dovrebbe essere un bel risparmio considerando la statistica, l'aspettativa di vita naturale, voglio dire, non parliamo di questioni legate all'ibernazione, e il fatto che questo avvocato ha una sessantina d'anni. Questo è uno dei casi appunto di persone che si sono affidate alla scommessa dell'ibernazione dopo la morte, sperando in una cura appunto al loro risveglio. Ma ci sono anche delle questioni meno fantascientifiche, se volete. Dicono che il freddo fa bene, avverte ad esempio Fossati: allora andate ad abitare a Oymyakon, che è un villaggio di 800 anime, si trova nel nord-est della Repubblica di Sasha, nell'est della Siberia. Il 26 gennaio del 1926 in questa località vennero registrati meno 71 gradi, a oggi è ancora la temperatura più bassa mai osservata nell'emisfero nord. L'inverno dura praticamente 9 mesi, l'escursione annua è prossima ai 100 gradi. Sembrano condizioni estreme, però ci sono decine di centenari che abitano in questo posto. L'emigrazione è quasi a zero, l'umore degli abitanti, riferisce appunto Il nel numero di questo mese, l'umore degli abitanti è ottimo. Le persone, tra l'altro, hanno un'aspettativa di vita ben più lunga del resto dei russi. È una specie di miracolo dello spirito di adattamento, ma soprattutto una strana semi-ibernazione perpetua. Tra l'altro, nel linguaggio locale, Oimiakon significa acqua non congelata, e lì vicino c'è una sorgente calda. Peraltro, avverte sempre Fossati, in lingua yakuta questo termine deriverebbe invece da un'altra parola che significa freddo cane, forse è quella più appropriata per un posto dove si raggiungono i meno 71 gradi d'inverno. Allora, restiamo tra le proposte che vengono appunto fatte dal Sole 24 Ore in edicola in questi giorni. È da pochissimo in edicola I Viaggi del Sole. I Viaggi del Sole, in questo numero, propone una destinazione diversa dal solito. Abitualmente ci si occupa di una sola località, invece questo numero è dedicato a 100 weekend da sogno, e il numero in qualche modo suddivide tutti i weekend possibili tra le varie destinazioni che possono avere una certa caratteristica, non so, quelle per la gastronomia, quelle per la bellezza, il fitness, quelle per il seguito di mostre o di eventi culturali particolarmente interessanti. Lo sport naturalmente non manca, e così ancora i weekend romantici o quelli con i bambini. 100 destinazioni che sono state raccolte appunto dai Viaggi del Sole, in vendita proprio in questi giorni insieme al Sole 24 Ore a 6,90 euro. Facciamo invece un passo indietro nel tempo e cambiamo completamente argomento, andando ad aprire Storica. Storica, lo conoscete, è un mensile. Nel numero appena uscito di febbraio, già in edicola in questi giorni, vi sono molti spunti interessanti. La copertina è dedicata alle guerre puniche, Scipione contro Annibale, guerre che hanno sempre appassionato anche chi poi magari non si intende, non si occupa abitualmente di storia. Nelle pagine del numero di Storica ho trovato una notizia molto interessante. Noi pensiamo alle volte che la propaganda, cioè la capacità di manipolare le informazioni, sia una prerogativa relativamente recente, cioè che sia più o meno nata con la radio, i giornali forse, o addirittura la televisione. In realtà si presenta il caso di una battaglia del 25 ottobre del 1415, e quindi siamo abbastanza lontani dai mezzi di comunicazione moderni, in cui una vittoria del re Enrico V sui francesi nella guerra dei cent'anni fu largamente amplificata proprio da un caso di propaganda inglese. Che cos'è successo? Secondo la tradizione, che è stata tramandata, che è stata in qualche modo propagandata, un manipolo di soldati inglesi, stanchi, decimati dalle troppe battaglie, indeboliti, affrontò e sconfisse l'esercito francese, che sarebbe stato almeno 5 volte più numeroso e meglio armato. Queste sono le cronache ufficiali del tempo, ovviamente sono cronache di parte inglese, descrivono così la battaglia di Agincourt, avvenuta nel nord della Francia. È stata una delle battaglie più sanguinose e feroci della guerra dei cent'anni. Ora spiega Paolo Manca su Storica: nessuno può negare l'inaspettata vittoria di Enrico V al comando di quella che poi venne chiamata la Banda di Fratelli, Band of Brothers, così come li chiamò appunto Shakespeare nell'Enrico V. Però oggi un gruppo di storici, dopo aver analizzato una sorprendente quantità di documenti dell'epoca, registri militari, registri delle tasse, mette un po' in dubbio le cifre riportate dalle cronache, che hanno assunto ormai un valore mitico. Si parlava di 1000 soldati con armature pesanti, 5.000 arcieri per la parte inglese, contro 10.000 soldati, ciascuno accompagnato da un valletto che però poteva anche combattere, e altri 4.000 uomini tra arcieri e altri combattenti per i francesi. Quindi farebbero 6.000 persone contro 24.000, e la vittoria appunto arrise ai 6.000. È solo un mito, ma è un mito che fa parte della psiche inglese, ha detto una storica dell'Università di Southampton, Anne Curry. E i nuovi conteggi però ridimensionano drasticamente la differenza tra i due schieramenti. Infatti, probabilmente l'esercito francese poteva contare su 12.000-15.000 soldati al massimo. Sul fronte inglese ci sarebbero stati almeno 8.600 militari, quindi la differenza tra le due armate non era così devastante come invece le cronache hanno poi tramandato. Le sue ricerche della storica hanno anche consentito di confermare che l'esercito era effettivamente composto da una band of brothers, ma nel senso che erano veterani che combattevano fianco a fianco da molti anni, quindi erano molto affiatati, e fu infatti la strategia e l'affiatamento poi a portare alla vittoria Enrico V, che sfruttò le condizioni del terreno portando i francesi in una posizione per loro sfavorevole. La cosa più interessante è che questa vittoria, in attesa ma forse non così sorprendente, fu immediatamente celebrata. Nell'euforia le cifre del confronto vennero esagerate, ci fu proprio una campagna propagandistica della corona inglese, così scrive Paolo Manca, e in questo modo è stata poi consegnata per secoli alle generazioni, finché appunto questi storici dell'università di Southampton non hanno provveduto ad andare a verificare che cosa c'era di vero e di reale nella battaglia e nelle cifre che erano state propagandate per la battaglia. Quindi un caso di alterazione della cronaca e della verità che è molto precedente all'invenzione dei moderni mezzi di comunicazione di massa. E con questo il tempo a nostra disposizione per oggi si è esaurito. Io ringrazio Pietro Lacorte che ci ha aiutato in regia, Vittoria Mussini e Manuela Sicuro che mi hanno invece aiutato a preparare questo programma. Ma vi devo anche segnalare la novità, perché da questa settimana cominciamo una seconda puntata settimanale di Magazine 24, quindi per chi vorrà saremo in onda ancora domani, domenica alle 8:30, quindi alla stessa ora del sabato, e così andremo avanti, quindi con un doppio appuntamento con i periodici e la stampa periodica italiana e non solo italiana, alla ricerca di notizie curiose, interessanti, di qualcosa appunto da leggere, di qualcosa per cui riflettere, su cui meditare. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a domani. Buona giornata a tutti.